Europa 24. Buongiorno da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Europa 24. Tra i dossier caldi di questi mesi a Bruxelles c'è il trattato di libero scambio transatlantico, conosciuto anche con l'acronimo TTIP. Trattato che dovrebbe vedere la luce, almeno così sperano le autorità comunitarie, entro la fine del 2016. Questo almeno è quanto ha affermato la commissaria europea al commercio Cecilia Malmström nell'intervista rilasciata poche settimane fa a Radio 24 in occasione della sua visita in Italia. Sentiamo allora qual è il punto di vista della Commissione nell'intervista che vi proponiamo per la prima volta in versione integrale. Ci sono ancora molti ostacoli da superare quando parliamo di commercio, ad esempio i tassi di esportazione molto elevati del vino italiano, del formaggio, di vestiti e scarpe. Non abbiamo ancora accesso al pubblico mercato e restano difficoltà a livello burocratico, soprattutto se parliamo di dogane. Abbiamo bisogno di più tempo per risolvere questioni come gli appalti pubblici e le indicazioni geografiche dei prodotti alimentari, sperando che il trattato possa essere portato a termine durante l'amministrazione Obama e che molto sia fatto entro la fine dell'anno. Quindi, se capisco bene, non ci sarà un'approvazione prima del 2016. Sì, finora è stato svolto un ottimo lavoro a livello tecnico, ma dopo l'estate comincerà il vero e difficile dibattito politico. Forse per fine anno avremo almeno uno scheletro dell'accordo, ma ci sarà bisogno anche di gran parte del 2016 per concluderlo. Qual è la sua opinione sul fatto che lo stesso Parlamento europeo è apparso indeciso e anche diviso nel corso dei negoziati sul TTIP? La risoluzione che hanno preparato è stata ideata con grande impegno. È una risoluzione molto importante che ha visto impegnati diverse commissioni. È stata rinviata una prima volta per trovare un compromesso, ma voglio ricordare che l'Europarlamento ha dato il suo consenso per cominciare i negoziati con gli Stati Uniti diversi anni fa. Quindi abbiamo il mandato e l'approvazione del Parlamento per condurre i negoziati. Alla fine, chiaramente, Strasburgo dovrà dire sì o no quando ci sarà l'intesa. Un tema molto controverso è quello della ISDS, una clausola, un meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato, che rappresenta un punto che ha fatto discutere. C'è molta paura, infatti, che le multinazionali possano fare causa ai governi europei. Qual è la vostra soluzione? Come potete garantire che ciò non avvenga? Questo tipo di clausole per la protezione di investimenti esistono da anni per proteggere gli investitori. Quello che intendiamo fare con il TTIP è modernizzare questi accordi, riformandoli, rendendoli più aperti, trasparenti, prevedendo un meccanismo di appello e rendendo perfettamente chiaro che le aziende non possono mai e poi mai mettere in discussione una legge nazionale, a meno che questa non la discrimini in quanto azienda straniera. Stiamo quindi riformando l'intera procedura delle clausole ISDS in cooperazione con il Parlamento europeo e gli Stati membri e sono certa che alla fine di questo processo avremo un sistema migliore. E poi c'è il problema degli standard europei nella produzione manifatturiera o alimentare, dove l'Italia ha numerosi interessi, senza contare gli standard ambientali o sulla sicurezza del lavoro. Come potete garantire che un futuro trattato euroamericano possa garantire il rispetto di questi standard? Tutti gli stati che hanno rapporti commerciali con l'Europa, ora e nel futuro, devono rispettare le leggi europee. Non c'è nulla che possa cambiare le condizioni di lavoro in Europa, così come gli standard esistenti a protezione del cibo e dell'ambiente. Questa è la legge europea e noi non stiamo negoziando nulla che possa andare a modificarla. Beh, commissaria, se tutto fosse così chiaro, forse non avreste tutte queste opposizioni, non crede? Credo ci siano stati molti fraintendimenti. Noi abbiamo commerciato con gli Stati Uniti per oltre 300 anni e milioni di persone in Europa lavorano grazie agli investimenti americani. Stiamo solo cercando di facilitare queste relazioni commerciali, ma ad oggi tutte le compagnie che investono in Europa, americane, così come cinesi, giapponesi o canadesi, qualsiasi compagnia deve seguire le regole esistenti. Posso capire che ci sia una paura diffusa a tal proposito, ma vorrei rassicurare che nulla cambierà. Ed è tutto per questa puntata di Europa 24. Un saluto, buon pomeriggio da Sergio Nava. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.